ma io quando l'ho ascoltata intorno ai 16-17 anni, quando ero proprio chiuso totalmente con Eminem, non lo so, mi aveva colpito in una maniera particolare. E secondo me, a parte il ritmo che tra poco vi farò sentire senza il disturbo della mia voce, c'è un'immagine, raga, tipo dice: se io avessi, che tra l'altro è il titolo della canzone, $1,000,000, io comprerei un cazzo di birrificio e renderei tutto il mondo alcolizzato. Non lo so, questa immagine mi è rimasta talmente impresso che niente, questa canzone me la porto appresso da lì. Ma vai, ve la faccio sentire. But if I had $1,000,000, I'd buy a damn brewery and turn the planet into alcoholics. If I had a magic wand, I'd make the world suck my dick without a condom on while I'm on a john. If I had $1,000,000, it wouldn't be enough, 'cause I still... Beh, qui dice anche che se avesse una bacchetta magica farebbe in modo che tutto il mondo glielo succhiasse. Direi che questo forse è un po' più... Però ecco, anche questa, ragazzi, è una canzone veramente, veramente confessione di Eminem, che dice proprio: se io avessi, e dice tutto quello che farebbe nel caso avesse qualcosa. Però ecco, ce la dobbiamo tradurre purtroppo per capirla bene. Poi tanto vi lascio il link tutto sulla pagina, quindi magari la potete ribeccare. Tired of baking knots with a stack of ones, having a lack of funds and resorting back to guns. Tired of being stared at, tired of wearing the same damn Nike Air hat. Tired of stepping in clubs wearing the same pair of lugs. Tired of people saying they're tired of hearing me rap about drugs. Tired of other rappers who ain't bringing half the skill as me, saying they wasn't feeling me on nobody's as ill as me. And I'm tired of radio stations telling fibs. Tired of JLB saying where hip hop lives. But if I had $1,000,000, I'd buy a damn brewery and turn the planet into alcoholics. If I had a magic wand, I'd make the world suck my dick without a condom on while I'm on the john. If I had $1,000,000, it wouldn't be enough, 'cause I'd still be out robbing armored trucks. If I had one wish, I would ask for a big enough ass for the whole world to kiss. You know what I'm saying? Positive when I don't see shit positive. You know what I'm saying? I rap about shit around me, shit I see. You know what I'm saying? Right now. E qua dice una cosa di cui non so proprio d'accordo, però in realtà, analizzata per bene, non è che c'ha tutti i torti. Tipo dice: come faccio a essere positivo se non vedo una cazzo di shit positiva? Non è un punto di vista proprio da sottovalutare. E niente, ragazzi, noi ci andiamo a sentire l'equivalente italiano di questa canzone. Sentite, secondo me riprende anche il ritmo. Questa va ascoltata proprio per bene bene, raga. Mi piacerebbe affidarmi alla religione, ad un partito, ad un capo, a una professione, come la maggioranza delle persone, perché ho passato da un pezzo l'età della ribellione. Mi piacerebbe che il male avesse confini precisi, come pensano i politici, gli snob e i cretini, la lavagna coi buoni e i cattivi, e che sia il mio rap and roll che corrompe i ragazzini, e non pensare a come stanno veramente le cose. Il nuovo ordine mondiale dentro me è confusione, il popolo impaurito diventa conservatore, prende il mostro e gli dà un colore, piuttosto che accettare che chiunque è un potenziale Hitler, che 9 su 10 un parente sempre il killer. La bestia si nasconde dentro me, dentro tutti, le uniche certezze sono i dubbi. Fa male cercare di scappare, e questo tempo infame scava dentro. Mi piacerebbe avere certezza. democrazia, lavoro, di giustizia e di legge. Non pensare invece a una specie di prigione. Dovunque vai la gente vuole un mondo migliore. La pace e l'amore, sì, ma solo a parole, solo in una canzone. Poi è la legge del taglione. È una gabbia mentale, l'anima rimane incatenata al corpo, il corpo al desiderio carnale. Alla rabbia, alla fame, finisci col misurare quanto tu stai bene in base a chi sta più male. Una cella più grande può bastare. Lavorare, mangiare, scopare, un nemico da odiare, un vicino da spiare, un altro a cui sparare, peccati da espiare prima di ispirare. Fa male cercare di scappare e questo tempo. Che gli piacerebbe? Mi piacerebbe una via di fuga intellettuale, dove c'è solo ideologia e tutta la magia scompare. Pensieri dentro scatole ordinate, preconcetti in buste preconfezionate. Sentirsi contro e comportarsi uguale, sentirsi cristiani e poi giudicare. Ed è più facile restare nel branco con l'alibi di eseguire ordini dall'alto. Per questo brucio il mio colore, la mia lingua e il mio vestito. Se non fosse per questo rumore non sarei esistito. Se non fosse per l'assurdo credo di essere diverso, ma connesso al resto terra di universo. Dentro me paradiso e inferno, fottuta lotta di classe nel mio cervello. Dentro di me la forza della rabbia che non cede. La miglior cura per i postumi è continuare a bere. Fa male cercare di scappare e questo tempo. Beh, che dire, una vera e propria confessione del dottor J-Ax. Tra l'altro poi questa canzone è nell'album Meglio Prima, e che è uno degli ultimi album che io considero del dottor J-Ax, secondo me. Perché io, ecco, proprio J-Ax per me idolo d'infanzia, poi da quell'album in poi, però questa canzone, devo dire, molto bella. E cos'altro aggiungervi qui? Intanto sotto parte una delle mie canzoni hip hop preferite nella storia, Potato Salad, raga. Tyler the Creator, A$AP Rocky, una bomba assoluta. Comunque niente, che vi dicevo, cioè, vedete quindi queste confessioni proprio di questi artisti, che alla fine noi vediamo sempre magari il lato solo artistico, no? Soltanto il lato quando stanno sul palco, quando si esibiscono. Però poi ci stanno anche delle loro, cioè dei loro pensieri proprio profondi e personali. Qui questo J-Ax avrà proprio una una analisi generale proprio di quello che è poi il rapportarsi alla società, il rapportarsi a se stesso. Quindi devo dire, proprio una bella canzone. E invece continueremo a breve con questo tema sempre, però con qualcosa di un po' più spinto, perché ci abbiamo il dottor Mezzo Sangue dopo, che sapete che è molto molto più, come potremmo dire, forse un po' più negativo, diciamo, un po' più profondo. E niente, ci andremo a sentire anche lui cosa pensa proprio nel profondo, cosa c'è nel profondo del pensiero di questo Mezzo Sangue. Io ovviamente vi ho colto una canzone rappresentativa, diciamo, per artista, però immagino ce ne siano molte di più. E direi che ci andiamo a sparare subito questa Mezzo Sangue song, Pim. Noi ci becchiamo dopo. The beliefs, the dogmas, the nationalisms are illusory. The very realization that they are false is the action of intent. Un'altra notte manca l'aria, un'altra notte appressa la mia smania, pressa i grossi paradossi che non calmo con un'altra canna. Calma, la mia nemesi sorride perché sa che siamo uguali e sa leccarmi le ferite. Guarda, degli umani ne ho la nausea, la causa non serve più cercarla se non so accusarla. Il fatto è che la mente è un'arma, un'arma. E imparerà a spararti contro se non trovi contro cosa scaricarla. Un'altra notte manca l'aria, un'altra notte appressa la mia smania, pressa troppi paradossi che non calmo con un altro calma. Canna, la mia nemesi non ride perché sa che sai calmarmi, sai distrarmi da ferite. Guarda, dei miei drammi ne ho la nausea, la causa non serve più inventarla se non so accettarla. Il fatto è che la mente è un'arma, un'arma. E impara a scaricarsi prima ancora che tu stessi impari a caricarla. Guarda mamma come mi diverta, presta un altro taglio che non mi hanno inferto. Puoi guardarmi in petto, ma fai presto perché sanguino da un pezzo e me lo tengo. Tutto mi dipende ed è per questo che non mi difendo. Calma, tutto ciò che c'ho so che lo merito. Medito sul problema ed il problema è che medito. Dedito al vero ma qua la verità si chiama Dedalo da. Ali che non reggono e reggono. Nichilismo. Gli manca l'aria al dottor Mezzo Sangue. Beh, diciamo che tutti questi artisti ci stanno dando dei messaggi chiari proprio sul rapportarsi a se stessi, no? Ma soprattutto rapportarsi anche alla condizione di artista, questa duplice visione di... Cioè di partecipare al mondo che poi tu descrivi, no? Anche in maniera artistica. Quindi forse poi c'è quasi naturale, ecco, produrre canzoni che parlino proprio di questa condizione. E, beh, ognuno a modo suo ci ha dato la sua interpretazione. Abbiamo Rancore che come al solito è proprio diretto, beh, si è chiamato Rancore, quindi diciamo che la parte emotiva per lui è abbastanza rilevante probabilmente, quindi, e che appunto lui è sempre molto profondo su questa analisi delle emozioni e di come poi le persone si rapportano alle loro emozioni, che appunto insieme a Clover Gold ci hanno fatto questa canzone Il meglio di me, che appunto ci invita. Cioè, che non solo ci invita, cioè riprende anche poi i temi discussi nelle altre canzoni, cioè da J-Ax e da Mezzo Sangue. Cioè lui dice: ora che la vita ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Quindi cioè, non è soltanto un messaggio così, diciamo, positivo, generico. Cioè ti... deriva da un'analisi della società, no? Quindi sono tutte visioni che comunque derivano da personalità artistiche e quindi cioè diciamo un po' come gli artisti vedono la società da fuori, no? Un pochetto la potremmo vedere anche così. E appunto abbiamo Eminem che non ve l'ho tradotta, ma se la traducete Eminem, beh, come saprete che non è che aveva questo amore per la società, anzi, beh, anche qui questa canzone critica tutto il meccanismo dell'andare al lavoro dell'8-17, quindi che è proprio quello anche del tema del film, no? E dice, diciamo, tutte le cose che farebbe lui se potesse essere a capo, quindi un'altra, diciamo, visione dall'esterno, no? Cioè, persone che noi apprezziamo, stimiamo e mettiamo magari in vetrina, però poi loro ci danno la loro visione diciamo appunto dall'esterno della società, da cittadino comune tra virgolette, cioè da quello che loro come semplici persone pensano. Questo mi sembrava molto interessante, quindi ho deciso di farci una puntata. Vi rimando poi a Dentro Me, quella di J-Ax, perché penso sia una canzone molto bella e meritevole di essere ascoltata con calma, diciamo, perché sono tanti i concetti, però ecco, ce ne stanno molti belli. Come ad esempio piuttosto che accettare che chiunque è un potenziale Hitler. Vedete, anche qui si riparte sempre dalla consapevolezza della realtà, della società, mai da comunque da un'illusione, diciamo, no? Quindi poi narrato da queste persone che fanno parte di quel proprio di quell'assetto lì che fornisce questa ideologia. E questo è quel punto della puntata, diciamo, che sono gli stessi che forniscono questa ideologia, che però poi te ne parlano. E questa, ragazzi, è una canzone che parte, che si chiama Storia di un presunto artista di Nitro, che appunto il titolo fa già intendere che è un presunto artista. Lui stesso si considera presunto, ma vediamo se la canzone ce lo spiega. E quando vedo nei tuoi occhi la malinconia, il mio senso di colpa mi porta via. Cerco una scappatoia per la mia nostalgia, fumo con la paranoia che mi fa compagnia. E quando vedo nei tuoi occhi la malinconia, il mio senso di colpa mi porta via. E non pretendo la tua sinergia, se vuoi usami una notte però poi buttami via. La musica mi ha sempre fatto più male che bene, per questo mi fermo spesso a pensare se stiamo assieme. Non riesco più ad andare a queste cene con le iene, cercando di bilanciare il bene a ciò che vi conviene. Sono stanco e non lo diresti mai, ma non sai quanto mi agito se salgo sopra un palco. A volte piango ma mi manca così tanto, quando eravamo solo io e te ed un foglio bianco. E so che sbaglio perché voglio tutto e subito, ma vivere di musica è come fare l'amore in luogo pubblico. Ti senti su di quei passanti ti sputano addosso, solo perché tutti quanti vogliono essere al tuo posto. E se ti sembro stronzo perché un po' ti ho trascurato, è perché sono passato da innamorato a tuo impiegato. Ma sai meglio di me che non ho mai davvero amato chi non mi ha lasciato almeno una volta il cuore spezzato. Ma la cosa che ti sfugge veramente è che io sono dipendente da sempre per te. Rido solamente se un fratello c'è. Questi mi vogliono buttare giù e fanno un cervello in tre. Non vi sento più, ho fatto buon viso a cattivo gioco, ma adesso che guido il gioco vi schivo e sorrido poco. Non mi fido di chi amigo de todos, siamo soli, vedo il ghigno sopra volti, mezzi sciolti dai liquori, e scopro che ogni critica è un macigno, tu ci credi o no? Ho messo il cuore in uno scrigno come Davy Jones. La notte insonne da risposte che non so, mentre cerco la mia identità con Jason Bourne. Io sono quello che tace e non ha consente, cerca ancora la sua pace interiore ma inutilmente. Tu sei quella che per me c'è stata ed è sempre presente, pronta a dare tutto a me che sono niente. E vedi sempre nei miei occhi la malinconia, ma mi sa che stavolta la colpa è mia. Forse in un'altra vita avrò tempo per l'allegria, questo è un altro testo che avrei dovuto buttare via. Beh, e io direi meno male che non lo ha fatto. Per fortuna ce l'ha mandato fino a noi. E che dire qui, ragazzi? Qui il Sornitro mi fornisce un assist perfetto per il discorso che stavo facendo prima sulla condizione dell'artista, ma dal punto di vista dell'artista, non dal punto di vista del pubblico, che noi ci aspettiamo sempre che gli artisti abbiano una vita chissà quanto fica, perfetta. Però poi se tu senti questo tipo di canzoni ad esempio Nitro qui dice: la musica mi ha sempre fatto più male che bene. Quindi forse va un attimo rivista questa visione di appunto super uomini, no? Cioè loro in realtà lottano poi per le stesse cose per cui lottiamo noi. semplicemente sono in grado di darci una visione pittoresca, direi, della, di queste questioni. Quindi è per questo che noi li apprezziamo come artisti, no? Penso sia questo poi quello che c'è alla base di, appunto, del, del concetto di artista, diciamo. Ma vivere di musica è come fare l'amore in luogo pubblico, ti senti sudicio e i passanti ti sputano addosso solo perché tutti quanti vogliono essere al tuo posto. Ecco qui quello che intendevo, il dottor Nitro ce lo confessa, come dicevo, in questa bella Manolin, sempre al lavoro, dicevo, ce lo confessa direttamente, come vi dicevo, questa è la canzone delle confessioni degli artisti. Ma poi ve l'ho spiegato un po' meglio durante la puntata, quello che intendevo, più una visione dell'artista, del punto di vista dell'artista. Oppure non scordarci che gli artisti sono anche persone come noi, la potete vedere come volete. Io purtroppo invece vi rimando alla prossima settimana, perché questa puntata è terminata. Vi lascio ovviamente con la sigla, che è una confessione ultra del dottor Marrakesh. Bella a tutti ragazzi, grazie di tutto, un saluto da Artampiglio, al prossimo giovedì sempre su Roots Radio. Bella. Sognano di diventare quello che detesti. La mia missione è di educarli, essere ribelli. Vogliono tutti placarmi come nel rugby. Tu mettiti l'anima in pace, la mia è in guerra. E prima l'ho detto a mia madre, poi Universal. Gli scopri che è stato sull'ultimato ma la terra. In viaggio per l'isola d'Elba, isola l'erba. Tu butta petali di rosa perché un floreale. Purple wheat, orangite ma floreale. Ero gialli, verdi, viola, ero aurora boreale. Per le macchine germane, niente coreane. Io so che il mondo non si cambia, si governa. Vogliamo somigliare a quelle a cui sputiamo merda. Ci danno in pasto nuovi vizi, nuova merda. Noi ce li prendiamo tutti come l'influenza. I miei colleghi lucrano sopra l'ingenuità, fanco disturbi della personalità. Onestà, onestà, insegnano ai licei. Onestà, sì, la stessa che ha fottuto i miei. Tu speri ancora che la legge faccia il tuo interesse. È come chiedere se è buona a chi la vende. Nel mio quartiere siamo al verde, però c'è il verde. Giocano i figli delle serve, la nostra gente. Sono una barona, sai che abito in prima linea. In guardaroba solo abiti, prima linea. Ed eravamo tutti amici prima dei contratti, prima dei soldi. Ma chi cambia sono quelli che non l'ha fatti. Tradire e fare, so che hai scelto di tradire infame. Io schifo i soldi, ma amo quello che ci puoi comprare. Sono 10 anni che non vendo più la vita d'ore. E 15 anni che mia madre guarda un po' sta sole. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Segui il leader. Il primo rapper dei quartieri nei quartieri alti. Il cavallo di Troia con dentro gli altri. Rapo come se dovessi ancora fermarmi. Su una palla da demolizione come Miley. Il vero lusso perché soldi e non pensare ai soldi. Ti dà fastidio ciò che dico perché ascolti. È proprio dove niente luccica che vedo l'oro. E proprio a me non mi ci vedo, lì ci vedo loro. Morte a piccole dosi. Puoi comprare a radio ogni cosa. Zona mia, outlet di droga. Boss è la roba nuova, bossa nuova. Questo nei videogiochi, dal vivo trema come il joypad. Le tipe strippano perché mi metto sempre a nudo. Tu invece addosso tanti nomi ma non sei nessuno. Ma non ho copiato così tante idee, tanti flow. Che ho capito che nel rap non c'è mio e tuo. La mia fame mi precede, portami su in cima, ho fede. Volontà vacille, non cede. Lato est, fra da me, batte il sole. Lato nord, battono le rumene. Così tanti G in salotto. Tutti a un tavolo come se qui c'è il G8. Li dipingo santi, Giotto. Comportiamo mettere il mercato in ginocchio. Fotti, traffica, tradisci, ruba, umilia. Picchi e sfrutta, spendi, ostenta. Stendi, fuma, bevi, scopa, usa e butta. Questo è quello che vende, questo è quello che vogliono. Se questo è quello che vince, questo è quello che mostrano. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Segui il leader, segui il leader. No, che che non puoi salvare il mondo, puoi salvarti tu. L'amicizia è solo un click, l'onore è solo un tattoo. L'amore è uno scoop che fa view, vendere di più. Dico fuck you, tipo screw, tipo fuck you. Vorrei sputtanarli per fare ciò che è più giusto, ma il pubblico ti detesta, poi quando gli sveli il trucco, quindi truffali, ingannali, ti ameranno per questo. Meno valore hai, più alto è il prezzo. Hai fatto prestiti per metterti vestiti che non puoi permetterti. Realpolitik Metternich, con la sete di filmare Dio con la sete di, mentre gli chiedo di dimettersi. Rabbia di secoli, domande senza risposta, perché il silenzio dei colpevoli, di chi ha progettato sta giostra, di chi ci ha reso così deboli. E vedo sangue sulle cravatte, di chi ha scommesso che il paese crollasse. E classe media senza classe, che ha lasciato accadesse perché voleva lei farne parte. Se non sai dove stai andando, ricordati perché è iniziato. Io non divento ciò che ho sempre odiato. Ricorderò ricordo che perché già lo faccio. Avete fatto, ricorda a me perché lo faccio. Per quello che ci avete fatto. Vendetta, ricordo che ci avete fatto. Ricorda a me perché lo faccio. Per quello che ci avete fatto. Sono un boss.